Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17.09, buonasera da Deborah Rosciani, questa sera insieme a voi con Focus Economia per fare il punto della giornata economico-finanziaria. La giornata oggi è stata molto densa di impegni per il Premier Mario Monti, che ha presentato, dopo un Consiglio dei Ministri durato più di 2 ore, il DEF, il nuovo strumento che disegna il quadro macroeconomico nazionale dei prossimi anni. Nel 2013 il rapporto deficit-PIL sarà attestato allo 0,5%. In futuro, ha promesso il Premier, il gettito della lotta all'evasione fiscale verrà utilizzato per rimodulare le aliquote fiscali, quindi per abbassare le tasse. Quella promessa che da tanto tempo viene fatta è stata riproposta quest'oggi in questa conferenza stampa per presentare appunto questo documento e il programma nazionale di riforme. Il governo ha anche indicato che per il 2012 il PIL italiano si contrarrà dell'1,2%, è una stima decisamente migliore rispetto intanto a quella della Banca d'Italia, che indica una contrazione per il nostro paese quest'anno di 1,5%, ma molto migliore anche di quanto ha invece previsto ieri, solo ieri, il Fondo Monetario Internazionale, -1,9%. Quindi chi ha ragione, noi speriamo che ce l'abbia il governo, già il dato è pessimo, ma è comunque migliore rispetto a quello formulato dagli altri organismi nazionali ed internazionali. In ogni caso andiamo incontro ad un anno molto pesante. Peraltro Monti ha anche ribadito, adesso ve ne daremo qualche dettaglio in più facendovi ascoltare alcuni estratti della conferenza stampa di oggi, poi commentando anche le indicazioni del governo con il nostro Dino Pesole. Monti ha anche detto, abbiamo veramente sfiorato il baratro, non è esattamente utilizzato questa parola, ma più volte ha fatto di nuovo ricorso al parallelo con la Grecia, ricostruendo questi ultimi mesi difficilissimi per il nostro paese, e ha fatto anche dei riferimenti alla condizione di grande difficoltà che molte persone stanno vivendo per la questione occupazionale, lavoratori ed imprenditori, tema che come sapete è oggetto in questo momento di una campagna molto importante anche di Radio 24, che ha attivato questa mail, chiamiamola così, di servizio disperati mai @radio24.it, dalla quale raccogliamo le testimonianze di tutti quegli lavoratori e gli imprenditori, appunto, soprattutto che non riescono più a far fronte agli impegni delle proprie aziende, rischiano di chiudere, qualche volta appunto nelle situazioni più drammatiche decidono addirittura di porre fine alla propria esistenza. Oggi abbiamo avuto, lo avete sentito anche nel giornale radio nell'apertura, il caso di questo pizzaiolo. Non abbiamo capito bene se il suo gesto sia da ricondurre alle questioni economiche, ci sono state anche delle delicatissime questioni familiari ricostruite dalle agenzie. Detto questo, però, ormai ogni singola storia basta a ritornare sull'argomento e ad enfatizzare come molti siano portati a gesti estremi, appunto proprio perché non riescono più a far fronte alle condizioni economiche della propria famiglia, della propria azienda, della propria vita. Allora, qualche ascoltatore invece naturalmente segnala: cara Deborah, oggi hai una voce funerea. Beh, è quella che ho, qualche volta è più brillante, qualche volta un po' meno. La borsa oggi non va bene, quindi se ieri avevo portato fortuna ai mercati finanziari, oggi non si può dire altrettanto. Milano sta perdendo il 2%, molto peggio vanno le cose a Madrid. Oggi di nuovo l'epicentro delle vendite e delle scelte di investimento degli investitori internazionali. Il nuovo terremoto è di nuovo appunto in Spagna, con un nuovo riflettore puntato molto severamente sulla condizione delle banche spagnole. Poi vi racconteremo appunto che cosa sta succedendo. Di fatto sono banche che sono piene di crediti inesigibili da parte del settore immobiliare, e ogni giorno si fa la gara a stimare, a quantificare diversamente le cifre appunto di questi crediti bancari spagnoli. Quindi vedremo oggi qual è il punto della situazione, come mai oggi il mercato si è svegliato ritornando di nuovo a penalizzare così tanto le banche spagnole. Non è che sia cambiato molto da ieri, eppure oggi il mercato ci ha pensato più severamente. Parleremo poi di nuovo della questione della riforma del catasto e della reintroduzione dell'IMU, anche se verrà spalmata su 3 rate per le famiglie, per i contribuenti e proprietari di immobili. In ogni caso, da molti osservatori, soprattutto dai più grandi, dalle più grandi organizzazioni del settore edile, arriva l'allarme. C'è chi dice ormai è una patrimoniale anche questa, c'è chi sostiene che queste introduzioni appunto delle norme nuove sulla casa, nuova tassazione sulla casa, nuova stretta sulla casa, porterà ad un crollo delle quotazioni immobiliari del 20% almeno entro la fine dell'anno. E insomma, certo, una cifra importante, che chi dice che però non sia anche, come dire, una buona cosa se i prezzi riprendono a scendere, magari il mercato immobiliare si rimette anche in moto, a prescindere dall'IMU. Lo vedremo, lo commenteremo poi con il presidente dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale appunto dei Costruttori Edili del nostro paese. Se volete commentare con noi i fatti del giorno, potete farlo scrivendoci alle 349-238-6666. Adesso andiamo alle notizie in breve della giornata. Allora, le materie prime, come sempre, diamo in apertura le quotazioni odierne di oro e petrolio. L'oro oggi viaggia in rialzo rispetto alle chiusure di ieri, 1653,63 dollari l'oncia. Il petrolio a New York rispetto alla chiusura di ieri sera ha aperto in calo, oggi a 103,72 dollari al barile. Sentite un po' che cosa è successo in Germania, situazione che noi ci sogniamo qua. I circa 20 milioni di pensionati tedeschi possono aspettarsi un aumento delle pensioni a breve. A partire dal 1 luglio, infatti, l'assegno previdenziale riconosciuto loro salirà in media del 2,2%, lo ha annunciato il governo tedesco. Tanto abbiamo avuto oggi, sempre dalla Germania, un plauso alle recenti misure prese dal governo Monti, che in questi mesi sono state molto convincenti. Lo ha detto proprio Martin Kotthaus, il portavoce del ministro delle finanze tedesco Schäuble, rispondendo ad una domanda sulle ultime decisioni appunto del governo Monti che gli è stata rivolta da qualche giornalista a Berlino. Allora, parlavamo prima della Spagna, poi su questo tema andremo con un approfondimento nel corso della trasmissione, ma stanno continuando a correre i crediti concessi dalle banche spagnole che difficilmente verranno recuperati. A febbraio i crediti non restituiti sono saliti all'8,16% del totale, secondo i dati della Banca di Spagna, contro il 7,9% di gennaio, il massimo dal 1994. I crediti concessi dalle banche sono in calo dello 0,4%, i depositi presso gli istituti di credito hanno segnato un meno 4,1%. La Banca di Spagna ha annunciato che le banche dovranno portare a quasi 59 miliardi di euro le riserve per far fronte alla terribile crisi immobiliare spagnola. E Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, si è detta preoccupata per la situazione spagnola e in particolare per le condizioni finanziarie delle banche iberiche, lo ha detto alla stampa tedesca. Quello che mi inquieta di più è che gli organismi di vigilanza europei, di sorveglianza europei e spagnoli, si preoccupino che gli istituti di credito spagnoli siano sufficientemente capitalizzati e i loro patrimoni adeguatamente valutati e abbiano ammortizzatori opportuni. Andiamo ad altre indicazioni espresse oggi ancora dal Fondo Monetario Internazionale dopo che ieri ha emesso la revisione appunto del suo outlook sui prossimi mesi relativo alla crescita mondiale. Oggi ci sono state delle dichiarazioni di José Vinals, responsabile del Global Financial Stability Report del Fondo Monetario Internazionale. Vinals ha detto: la solidità del sistema bancario italiano, quindi ha guardato anche il nostro paese, è molto elevata e le autorità italiane si sono mosse nella giusta strada per rafforzare le banche. Poi, guardando alle banche europee, invece qua le dichiarazioni sono state un po' più all'insegna della prudenza, della perplessità, con una riduzione dei bilanci delle banche europee di 2.600 miliardi di dollari entro il 2013. si rischia una stretta del credito dell'1,7% in due anni, come se quella in corso, chissà come si chiamasse. Il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che nello scenario peggiore le banche potrebbero arrivare a ridurre i propri bilanci di 3.800 miliardi di dollari, con una riduzione del credito ulteriore, aggiungiamo noi, del 4,4% e un calo quindi complessivo del PIL dell'1,4% in due anni. Andiamo invece alle dichiarazioni espresse oggi dal Centro Studi di Confindustria su ciò che accade nel nostro paese. Oggi il Centro Studi appunto dell'Organizzazione degli Imprenditori e degli Industriali Italiani ha fatto sapere che a febbraio c'è stato un nuovo calo molto consistente dei prestiti alle imprese italiane, un calo che si è registrato per il quinto mese di fila, meno 0,5% su gennaio, quindi febbraio su gennaio. Da settembre lo stock è diminuito dell'1,9%. Poi c'è stata una dichiarazione sulla disoccupazione: la brusca impennata della disoccupazione italiana proseguirà perché permarranno, dice Confindustria, le condizioni che l'hanno causata, perdite di posti di lavoro che si coniugano alla maggiore ricerca di impiego per compensare la caduta del reddito reale. Un altro tema che approfondiremo dopo, ve l'ho già anticipato prima: a febbraio la produzione nelle costruzioni è crollata del 20,3% rispetto ad un anno fa. Lo ha comunicato oggi l'Istat, precisando che il dato corretto per il calendario mostra un calo, per la verità ancora peggiore, pari al 23% rispetto a gennaio. La produzione del settore è scesa di ben il 9,9%. Effetto IMU sui prezzi degli immobili, oggi lo ha individuato il Censis, secondo il quale a fine anno i valori delle case si ridurranno del 20%, con punte superiori al 50%. Sono state dichiarazioni espresse proprio dal direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, nel corso di una conferenza stampa. E per far fronte alla nuova tassazione, ha detto il presidente appunto del Censis, le famiglie venderanno le seconde case. E sempre a proposito di famiglie, la fiducia di queste nel nostro paese è ai livelli minimi degli ultimi 7 anni. A fine 2012 i consumi registreranno una riduzione del 2,7%. La stima è del presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, che indica la pressione fiscale reale per il 2012 al 55%. Ieri il Fondo Monetario Internazionale diceva il 45% abbondante per il nostro paese, mentre nell'arco del triennio 2011-2014 l'aumento ulteriore dell'IVA brucerà 38 miliardi di euro di consumi. Dopo questo bollettino di guerra, direi di andare a sentire un po' che cosa ha detto oggi il presidente del Consiglio Mario Monti, approvando il documento di economia e finanza, il nostro primo approfondimento di oggi. Allora, come vi abbiamo anticipato, oggi è il grande tema del quale si occupano un po' tutti gli organi di informazione. È stato approvato in Consiglio dei Ministri il DEF, il documento di economia e finanza. Il governo si attende per quest'anno, lo dicevamo prima, un arretramento del prodotto interno lordo dell'1,2% e un deficit dell'1,7%, ed è stata confermata anche una situazione di quasi pareggio di bilancio nel 2013, mentre ieri il Fondo Monetario ha detto che questo obiettivo verrà mancato molto palesemente dal nostro paese, quando il PIL appunto sempre nel 2013 dovrebbe crescere dello 0,5%. Da dicembre si è registrato un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche. Il governo stima appunto che il PIL si contrarrà dell'1,2, lo ha riportato poi al termine del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi. Ristabilire un'Italia capace di crescere è un compito appena iniziato. Noi ci battiamo ogni giorno per evitare il drammatico destino della Grecia. Questo è quanto ha detto Mario Monti. Sentiamo in questo estratto dalla conferenza stampa di oggi. Dalla nascita di questo governo, nel momento peggiore della crisi del debito sovrano, vediamo ogni giorno gli effetti drammatici di una crisi economica e finanziaria che si prolunga da più di 4 anni. Questa crisi sta imponendo un prezzo altissimo in termini economici, sociali, umani alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori, alle imprese, imprese che chiudono, esperienze professionali che si interrompono, aspirazioni, quelle dei giovani italiani che non hanno lavoro, che rimangono frustrate, qualche volta vite che si chiudono nella disperazione. Sappiamo però quale sarebbe stata la disperazione se l'Italia fosse caduta nel baratro del fallimento e del default del suo debito sovrano. Il Paese, gli italiani tutti, hanno dimostrato in questi mesi una grande vitalità e una capacità di reagire uniti nel segno della responsabilità civile, sociale e istituzionale. Questo è un patrimonio che non deve andare disperso oggi in una congiuntura interna e internazionale che resta ancora difficile e che chiede di non rallentare l'impegno per voltare pagina e costruire un futuro di crescita e di occupazione. E abbiamo voluto evitare, e ci battiamo ogni giorno per continuare ad evitare, un drammatico destino come quello della Grecia. Dino Pesoli, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Prima vorrei fare un po' di chiarezza per i nostri ascoltatori sulla terminologia di questi nuovi strumenti adottati dal nuovo esecutivo. La vecchia manovra economica finanziaria oggi si chiama legge di stabilità. Il DEF prende il posto di qualche cosa, Dino, perché mi pare che il documento di programmazione economico-finanziaria venga comunque mediamente varato in giugno e quindi non ci siamo con i tempi. Il DEF che cos'è? Il DEF è il documento di economia e finanza, in sostanza è il documento programmatico, prima si chiamava DPF, che e quindi è lui. Che è la stessa cosa, sostanzialmente è cambiato il nome, racchiude sostanzialmente gli impegni programmatici che il governo mette in campo da qui ai prossimi anni sul fronte delle variabili ovviamente macroeconomiche, quindi stiamo parlando del PIL, del deficit, il debito e quant'altro, e viene accompagnato dallo scorso anno da altri due documenti, in particolare uno che è il piano, il programma nazionale di riforma, che è il documento che tutti i paesi europei devono presentare a Bruxelles per dire a Bruxelles e all'Europa che riforme intende realizzare da qui al 2020 per onorare gli impegni dell'agenda per lo sviluppo 2020, che è l'agenda appunto che è stata messa a punto a livello europeo. Secondo quanto previsto dal trattato sul Fiscal Compact che è stato adottato in marzo? Allora, il trattato sul Fiscal Compact in realtà è niente altro che un aggiornamento del cosiddetto Six Pack che venne varato a marzo, e quello è sostanzialmente concentrato sulla nuova disciplina di bilancio. Un trattato che è stato voluto fortemente dalla Germania e che obbliga gli Stati membri a una drastica cura dimagrante per ridurre i propri deficit pubblici in direzione del pareggio, e vale a dire una posizione strutturale di disavanzo che non superi lo 0,5% del PIL. Questo è un po' il senso. Benissimo, allora senza ritornare a scomodare tutto il resto d'Europa, rimaniamo in casa nostra e vediamo che cosa ha detto Monti, che cosa prevede nel nostro paese. Balza subito all'occhio, Dino, il dato sulla contrazione italiana previsto dal governo, 1,2% di calo del PIL quest'anno. Siamo molto lontani da quanto da tempo prevede la Banca d'Italia, che pensa che il nostro paese scenderà in termini di crescita dell'1,5%, e ancor più lontani siamo da quanto invece ieri senza pietà ha decretato il Fondo Monetario Internazionale, -1,9. Come mai a tutto questo, chiamiamolo poi ottimismo per un paese che scende così tanto, non è che si possa essere tanto ottimisti, ma in ogni caso è sicuramente più ottimista Monti rispetto a Christine Lagarde o a Ignazio Visco? Sì, lo ha spiegato in conferenza stampa lo stesso Presidente del Consiglio, dicendo che ovviamente si tratta di stime, tutte le stime sono sottoposte a interpretazioni, oscillazioni, soprattutto in questa fase, perché oggi è veramente molto complesso prevedere quanto cresceremo quest'anno, quanto non cresceremo quest'anno e quanto potremo cominciare a crescere dal prossimo anno. La differenza è sostanzialmente in una componente, vale a dire in una scommessa che il governo oggi mette in campo, che è quella di realizzare già nel corso del 2013 alcune delle riforme che sono state già varate e dà a queste riforme un impatto dello 0,3% annuo di aumento del PIL, e anche questa però è una scommessa, quindi è una variabile interna, ovviamente il tutto nella considerazione che l'Italia non va da nessuna parte se l'Europa non riprende a crescere, perché siamo pienamente, totalmente in un contesto internazionale. Quindi da un lato c'è una variabile, come dire, esterna, l'Europa, dall'altro siamo noi che dobbiamo fare le riforme, dobbiamo mettere in campo misure adeguate per sostenere lo sviluppo. Da questo punto di vista ci sono molte incognite nel documento di economia e finanza. Intanto il dato di fatto abbastanza allarmante di una pressione fiscale che nel 2013 supererà il 45% del PIL è una percentuale elevatissima. Un tale livello di tassazione non è sostenibile nel medio periodo, quindi qua bisogna agire rapidamente per ridurla. E l'altra scommessa è nel calo della spesa per interessi, cioè si scommette su uno spread che dovrebbe essere più o meno stabilmente almeno tra i 200 e i 300 punti base. È una scommessa. È una scommessa, diciamo che su questo livello ci eravamo già ritornati nelle scorse settimane, è tutto sommato, se si riesce bene in queste promesse, una scommessa a portata di mano. Sempre a proposito della pressione fiscale, io te lo declino in maniera diversa l'argomento. Monti è ritornato invece sull'altro tema che gli sta caro, non tanto ai fini di ottenere consenso generale, ma proprio per una questione di equità nel nostro paese che manca da troppo tempo. Lui dice, insomma, i futuri proventi della lotta all'evasione fiscale dovranno essere utilizzati anche per ridurre le aliquote fiscali. Questa promessa che fa e che non riesce a mantenere, stamattina lo ha ribadita, l'ha ribadita mettendola nera su un bianco all'interno del DEF. Ci si riuscirà questa volta, secondo te, con che margini, Dino? Al momento i margini non esistono, perché con il debito pubblico al 120%, una economia che è in contrazione e in recessione, con tre manovre economiche varate nel 2011 che sono per circa il 70% aumenti di tasse, è difficilissimo individuare dei margini, però ci sono delle prospettive e devono esserci, perché altrimenti l'economia non riparte, perché l'unico modo per sostenere l'economia è rilanciare la domanda interna. Allora, lo si può fare come? Attraverso una accuratissima operazione di selezione della spesa pubblica. Adesso a fine mese siamo tutti in attesa di conoscere i risultati di questa famosa spending review, vale a dire una revisione complessiva della spesa che sta conducendo il ministro Giarda. Poi ci sono i 60 miliardi di corruzione che ha denunciato la Corte dei Conti. Allora io dico, per un paese che è in recessione, che ha una tassazione di questo tipo in cui si verificano fenomeni gravissimi a livello sociale, è fondamentale comunque immaginare già nel medio periodo un taglio della pressione fiscale. L'unico margine che io intravedo è nel recupero di efficienza della macchina pubblica, nella lotta all'evasione, tenendo conto però che i proventi della lotta all'evasione non si possono ipotecare prima. Solo quando il bottino si è incassato si può immaginare di distribuirlo. Quindi forse si potrà cominciare a parlarne a fine anno. Benissimo, Dino, noi ti lasciamo perché so che è una giornata particolarmente intensa come la nostra. C'era un altro tema molto importante, poi su questo magari faccio sentire le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera sul tema dei mancati pagamenti e dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Poi ci ritorneremo. Dino, grazie e buona serata. Grazie, buona serata a grazie voi. A te. Domani sul Sole 24 naturalmente ci sarà grande spazio al nuovo pacchetto appunto del governo presentato questa mattina nel DEF, il rating del Sole 24 ore sul pacchetto del governo, con un esame anche di tutti gli strumenti a sostegno delle imprese. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo la nostra prima pausa. Intanto vi preannuncio che sul finale è tornata a peggiorare di nuovo la seduta di borsa, con Milano che sta scendendo del 2,42%, e neanche a dirlo, tutte le vendite sono su quasi tutti i titoli del settore bancario. Per la verità il peggiore è una utility A2A, meno 5,32%, ma sugli altri casi del giorno ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. E allora, vi abbiamo commentato prima, vi abbiamo spiegato in che cosa consiste il documento di economia e finanza approvato oggi dal Consiglio dei Ministri con il nostro Dino Pesoli. C'erano dei passaggi che non abbiamo concluso appunto di raccontarvi, fra cui quelli espressi dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, perché uno dei temi più importanti affrontati oggi è stato quello dei ritardati pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione. Allora, Passera si è sbilanciato con questa promessa, ha detto: incontreremo nei prossimi giorni il sistema bancario, siamo convinti che ci sia la disponibilità di un anticipo di 20-30 miliardi di euro, speriamo che da ex bancario banchiere, anzi più che bancario o comunque grande manager del settore bancario italiano, possa usare tutta la sua capacità persuasiva appunto per convincere le banche ad elargire questo credito. Sentiamo le dichiarazioni di Passera oggi in conferenza stampa. Nel decreto Semplifica Italia, che è adesso all'analisi, alla valutazione del Parlamento, c'è una norma molto importante che rende, attraverso un meccanismo che non sto a dirvi comunque, che rende garantibile il meccanismo del prosolvendo, cioè mette in condizioni le banche di anticipare alle aziende debiti scaduti. E qui abbiamo in mente cifre importanti. Incontreremo nei prossimi giorni il sistema bancario perché siamo convinti che ci sia disponibilità anche da quella parte per anticipare probabilmente qualcosa nell'intorno dei 20-30 miliardi che in un momento come questo possono fare la differenza. Ma non basta, perché oltre a cercare di smaltire una parte del mondo del debito, dell'indebitamento, dei debiti scaduti pubblici, c'è sia la parte privata e poi c'è il tema di non crearne di nuovo. Allora, peraltro il ministro Passera si è sbilanciato anche su un'altra promessa, non l'ha fatta con grande chiarezza, ma ha detto che valuterà un passo indietro da parte del governo sul tema delle accise sui carburanti, siccome sono talmente tante, stanno gravando così tanto sul costo della benzina da rendere insostenibile un pieno o medio per una vettura media, e allora direi che forse è il caso che ci si pensi davvero con grande serietà. Siccome sulle accise ha detto c'è stato un intervento molto forte, è possibile che quando parleremo di sgravi con la lotta all'evasione se ne discuta. Beh, allora qua andremo alle calende greche anche questa volta. Per par condicio, dopo aver sentito rappresentanti illustri del governo, il premier Monti e il ministro Passera, direi di sentire anche che cosa ne pensa di tutto questo Susanna Camusso, leader della CGIL, che questa mattina è intervenuta nel programma di Oscar Giannino 9 in punto, la versione di Oscar sul tema della crescita. La Camusso, ancora prima di sentire la conferenza stampa di Monti, ha detto però la crescita non è nelle corde di questo governo. Noi abbiamo detto lungo tutto il percorso di discussione della riforma del mercato del lavoro che andava bene provare a costruire nuove regole, soprattutto andava bene contrastare la precarietà, ma che di per sé le regole non avrebbero determinato la crescita di un solo posto di lavoro. E noi continua a parere questa l'emergenza, il fatto che non c'è lavoro, non se ne crea, se ne perde molto rispetto a quello che c'è, si fa fatica a mantenerlo. E soprattutto ci sono due generazioni che non riescono a entrare nel mercato del lavoro, oltre ai tanti che sono trovati fuori e senza prospettiva. Quindi da tempo noi dicevamo il lavoro deve tornare centrale, avevamo forse illusoriamente una speranza che la delega fiscale corrispondesse a una scelta di intervento sull'abbassamento della tassazione per il lavoro dipendente, per le imprese che investono, insomma, fosse indirizzato alla crescita, e le risposte che sono state date ci confermano che invece la crescita non è nelle corde di questo governo e dei provvedimenti che si fanno. E lasciamo il DEF adesso, caro Paolo, devi subito velocizzarti nel cambiare lo stacco che ci serve adesso, perché andiamo a raccontare la giornata di borsa. Fatto un blitz a sorpresa, beh mica tanto, anche perché comunque era in programma di parlare di borsa a quest'ora della giornata, è il nostro appuntamento fisso. Intanto saluto e ringrazio Livia Zancanera, Radio Core Il Sole 24 Ore. Livia, buonasera. Buonasera. Saluto anche, visto che è già arrivato, il nostro Walter Riolfi, Il Sole 24 Ore. Walter, buonasera. Buonasera. Allora guarda, coinvolgo subito Walter perché ci sono degli ascoltatori che oggi mi stanno attribuendo un utilizzo della voce molto moscio, molto prudente, tranquillo, non lo so, insomma vado un po' in linea con i mercati, Walter, questa chiusura piuttosto pesante di nuovo per i listini, perché non saprei come definirlo, per Piazza Affari meno 2,42%, abbiamo ribruciato tutto quello che abbiamo guadagnato ieri. Io mi sono allineata alla borsa, mi spieghi tu, poi racconteremo singoli casi con Livia, che cosa oggi di tanto dirompente è arrivato sui mercati da riprovocare queste vendite che hanno avuto come epicentro ancora una volta Madrid, la Spagna, le banche spagnole, ma mi chiedo che notizia così eclatante sia arrivata nelle ultime ore al punto di riscatenare questa pioggia di vendite. Sì, l'anomalia non è oggi. Era ieri. L'anomalia era ieri. Infatti alcuni grossi investitori mi hanno spiegato ieri che c'è stato questo balzo dei mercati semplicemente perché c'era stato un eccesso di venduto, di scoperto sia sulle azioni sia sui titoli di Stato attraverso i CDS, i credit default swap. Ne avevano fatto un po' troppo, qualcuno aveva deciso di ricoprirsi e, come succede, qualcuno si accoda ai grandi che si ricoprono e hanno fatto il balzo. Oggi hanno realizzato che quel balzo era eccessivo e quindi hanno riperso quello che hanno guadagnato ieri. Quindi diciamo che oggi non c'è un'anomalia, data la situazione di tempo perturbato a dir poco che c'è sui mercati finanziari. Però sulle condizioni delle banche spagnole adesso ci ritorneremo. Chiedo a Livia un minuto di pazienza perché siamo già arrivati a suggerimenti per chi è in viaggio. Ritorniamo, non ce l'abbiamo ancora, Paolo. Allora Livia Zancanera, ancora buonasera, un primo caso di borsa lo possiamo raccontare, qua c'è l'imbarazzo della scelta, i segni meno, neanche a dirlo, hanno colpito i titoli bancari, però la peggiore è stata una utility, A2A, meno 5,32%, perché? Sì, allora diciamo che A2A è sentito da una parte del calo del comparto materie prime in Europa, trainato dal meno 7% della spagnola Iberdrola, dall'altra A2A è sentito della decisione di Moody's di mettere sotto osservazione il rating per un possibile declassamento, una decisione che è stata comunicata ieri e che è stata presa, spiega l'agenzia di rating, a causa del potenziale deterioramento del profilo finanziario di A2A e dalla crescente esposizione verso il settore energetico che emergerà dopo la ristrutturazione, nel corso della ristrutturazione di Edison. Allora adesso sì, siamo in grado di fermarci, poi vi racconto cosa c'è dietro invece al meno 5% di tutte le banche. Vabbè, ieri la Popolare dell'Emilia Romagna si è portata a casa un più 11, quantomeno oggi perdere un 5% ci sta tutto, ci ritorniamo su questi temi tra poco. Commento sulla giornata di borsa con Livia Zancanera, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Livia, abbiamo detto delle banche oggi, dopo aver ieri spiccato il volo, oggi hanno frenato e anche parecchio. C'è anche da dire che lo spread è ritornato a 390 punti base in giornata? Sì, allora diciamo che a Piazza Affari appunto c'è stata tensione sulle banche dopo il rally della vigilia. Ricordiamo che il comparto in Europa ha ceduto comunque il 2% circa. Come dicevi tu, lo spread ora segna 376 punti base, lo spread BTP Bund. Le peggiori a Piazza Affari sono state il Banco Popolare, Intesa San Paolo, la Popolare dell'Emilia Romagna, Unicredit e BPM, che hanno realizzato perdite intorno ai 5 punti percentuali. Ricordiamo inoltre che ieri la Banca di Spagna ha annunciato che gli istituti spagnoli hanno individuato in 29 miliardi circa l'ammontare degli ulteriori accantonamenti necessari, in 15,6 miliardi circa il capitale da raccogliere, quindi le banche in Europa hanno risentito anche dell'annuncio da parte della Banca di Spagna. Ti faccio raccontare solo rapidamente oggi la galassia Ligresti, come si è comportata Livia, poi insomma sui temi del giorno, tanto abbiamo capito che è un po' di nuovo l'epicentro dell'ondata rivendite è stato le banche, hanno stato rappresentate appunto dalle banche. Galassia Ligresti, come si sono mossi oggi i titoli del gruppo Fondiaria e sì, allora, ricordiamo appunto che ieri il PM ha presentato l'istanza di fallimento per le holding non quotate e i titoli si sono mossi in maniera contrastata. Fonsai ha chiuso con un ribasso del 10,35% circa, Milano Assicurazioni ha perso sempre terreno, ha ceduto il 6,60%, mentre Premafin ha guadagnato l'1,71%, quindi un andamento leggermente contrastato per le società. Livia, ti ringrazio per essere stata con noi, buonasera. Serata. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Questi investitori non li sopporto più, è mai possibile che la nostra vita debba dipendere dai mercati? Ci dice un'ascoltatrice, caro Walter Riolfi, ed effettivamente da

agli imprenditori drammaticamente preoccupati, fino al punto da togliersi la vita. Come sapete, Radio 24 ha attivato questa iniziativa Disperati Mai @radio24.it, ha attivato questo indirizzo di posta elettronica, un'iniziativa congiunta tra Focus Economia e la trasmissione di Oscar Giannino, 9 in punto la versione di Oscar. A questo indirizzo tutti coloro che si trovano in condizioni disperate e che addirittura immaginano di porre fine alla propria esistenza perché non riescono più a fronteggiare le proprie problematiche economiche, appunto, possono scriverci per raccontarci, liberarsi quantomeno un po' di questi drammi che non sono solo interiori, perché se fossero solo questi magari li potremmo anche curare. Il problema è che sono qualcosa di molto più importante, più drammatico. Quindi scriveteci, noi lo sta già facendo Oscar da qualche giorno e anche Focus Economia, anche Sebastiano Barisoni nei prossimi giorni leggerà le vostre testimonianze, che sono raccolte anche da tante altre iniziative che si sono in questi ultimi periodi organizzate sul territorio. Le associazioni professionali stanno attrezzandosi per fornire assistenza non solo psicologica a queste persone, ma anche da parte del mondo legale, del mondo dei commercialisti, per cercare di ripristinare magari un dialogo con la banca, per rimettere in sesto un discorso economico, appunto, che si è interrotto. E quindi ci sono molte iniziative, appunto, che sul territorio si stanno organizzando. Noi le stiamo raccontando ogni giorno e tra qualche minuto vi racconteremo anche di questa marcia, questa fiaccolata silenziosamente che si svolgerà stasera a Roma dalle 20 al Pantheon, organizzata da 20 sigle tra sindacati, associazioni e confederazioni, appunto proprio per enfatizzare di nuovo l'attenzione su questa drammatica situazione che stanno vivendo molti lavoratori e molti imprenditori. Situazione molto difficile anche quella che sta vivendo il comparto edile, il comparto delle costruzioni. Perché a febbraio la produzione del settore è crollata del 20,3% rispetto ad un anno fa. Il dato è stato fornito stamattina dall'Istat, precisando che il dato corretto per il calendario mostra un calo ancora peggiore, pari al 23%. Rispetto invece al mese precedente, la produzione è scesa del 9,9%. Il crollo della produzione nelle costruzioni è il peggiore da gennaio 2009, quando si registrò un tonfo del 23,3%. Nella misurazione del calo, hanno spiegato i tecnici dell'Istituto di Statistica, non ha influito l'ondata di maltempo e di gelo che ha travolto l'Italia all'inizio di febbraio, paralizzando per giorni il paese. Buonasera al presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili, Paolo Buzzetti. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, adesso a prescindere dal commento sul dato, che naturalmente se vorrà ci potrà anche dare, volevo invece chiederle un commento rispetto alle stime sull'impatto che la riforma del catasto e la reintroduzione dell'IMU pure rateizzata per le famiglie, appunto, produrrà nel settore del nostro paese. Oggi un dato molto preoccupante è stato fornito dal Censis, secondo il quale a fine anno i valori delle case si ridurranno del 20%, con punte superiori al 50%, proprio per effetto dell'IMU. Le dichiarazioni sono state rilasciate dal direttore generale del Censis, Giuseppe Roma. Poi leggo anche che cosa ha detto invece il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ma chiedo a lei subito un commento, perché ho visto che lei ha rilasciato negli ultimi giorni un commento sulla riforma del mercato del lavoro, ma ancora, a meno che non me ne sia perse io, presidente, sull'IMU e sulla riforma del catasto la sua non l'ha detta. Che ne pensa? Beh, guardi, noi stiamo dicendo da moltissimo tempo che il settore dell'edilizia ha 4 anni di crisi e il settore industriale che ha perso più posti di lavoro e che è nella maggiore crisi generale, purtroppo anche con la terribile e drammatica notizia dei suicidi, perché il 40% delle persone purtroppo che sono ricorse a questa drammatica soluzione, che devono essere, sulla quale devono essere naturalmente assistenze da parte di tutti noi, ci deve essere, e poi ne parliamo. In realtà è il settore, diciamo, che sta in maggiore difficoltà e sul quale questa riforma dell'IMU e questa tassa della casa, che in realtà è stata assolutamente una patrimoniale, la patrimoniale è stata fatta sulla casa, diciamocelo chiaramente, e naturalmente è assolutamente l'ultimo elemento che ha contribuito a portare in recessione il settore. Ne capiamo le ragioni, per carità, sia ben chiaro, dell'ottimo lavoro che il governo ha svolto rispetto alle realtà internazionali e alla situazione in cui era il paese, però a questo punto stiamo cominciando a non capire più perché si insista assolutamente con provvedimenti recessivi e non si prenda in considerazione ciò che sta avvenendo in tutti i paesi europei, di utilizzare l'edilizia positivamente per ricreare occupazione e far ripartire. C'è un pochino, ovviamente involontariamente, si sta realizzando un accanimento nei confronti del settore. Non veniamo pagati, le metto in conto questo. Infatti, tra l'altro, il credito che viene in generale, così conflitto subito, aggiungiamo addirittura oggi, se andiamo ad apprendere la riforma del catasto, che è cosa sostanzialmente ridibile se non viene fatta con dei criteri ragionevoli, perché diventerebbe, secondo il meccanismo di moltiplicatori che vengono applicati, se vengono modificate queste basi imponibili catastali senza un criterio, i valori schizzano al 60-70% di quello che sono. Allora, tutto questo dice il Censis, prevede quell'andamento. Guardi, noi abbiamo indovinato che non c'era una bolla immobiliare 4 anni fa all'inizio della crisi, in effetti non c'è stata. Quindi siamo molto attenti che in questo momento ci sia un rischio del genere, sarebbe anche drammatico per l'80% dei cittadini proprietari di casa, no. Però il Censis penso abbia voluto indicare un pericolo che potrebbe avvenire nel tempo se non la facciamo finita con una politica puramente recessiva e nell'ambito anche del rispetto dei rigidissimi e forse anche un po', diciamo, da commentare parametri europei sul pareggio di bilancio, e si faccia un minimo di politica di incentivazione dell'economia. Probabilmente non si era capito, me lo faccio dire, da parte di nessuno, né dalle forze politiche né da parte del governo, che in realtà il paese, la parte industriale, stava soffrendo così tanto, le famiglie, e che c'era una situazione così critica. Forse con quest'idea che siamo troppo ricchi come famiglie, poveri dello Stato, cosa che è giusta, si è esagerato. Qui ci vuole una svolta economica immediata, dalle chiacchiere bisogna passare ai fatti. Passera l'ha promesso oggi, ha detto il primo tema è accelerare, questo è un tema che vi riguarda, l'apertura dei cantieri, mettere in moto attività e far sì che i soldi girino per progetti rilevanti per il paese, questi soldi vi dovrebbero anche tornare indietro. Lei ha detto non ci pagano, lo fa per prima la pubblica amministrazione, e oggi Passera ha detto anche noi vogliamo rimettere in circolo anche questo denaro, incontreremo le banche nei prossimi giorni per farlo. Presidente, posso darle solo un minuto, non di più, ma di quanto siete in credito voi con la pubblica amministrazione? Il vostro settore quanto deve vedersi? Guarda, noi il 15 maggio abbiamo deciso che presenteremo le cifre esatte di quanto siamo in credito con la pubblica amministrazione. Il 15 maggio faremo una rappresentazione chiara di questi dati e poi, se non si sarà fatto qualche provvedimento, partiremo con le diffide. Diciamo in appoggio ai nostri associati, perché adesso una soluzione va trovata. Bisogna riconoscere al ministro Passera, al vice ministro Ciaccia, cioè che stanno facendo di tutto per cercare di far partire in qualche modo l'economia, ma ci vuole una convinzione generale a livello del governo, ci vuole finalmente mettere attenzione sulle politiche per l'edilizia che si possono fare, far impiegare veramente i pochi e i soldi che ci sono, togliendoli anche dagli sprechi infiniti che vediamo sulle grandi, le piccole e medie opere, le scuole, i dissesti idrogeologici. Abbiamo anche proposto un piano città, le cose da fare ci sono, l'importante però è che si cominci veramente a metterle in pratica e non si resti con l'idea che le cose vanno avanti da sole e che le riforme in cuore impostate faranno rifiorire il mercato interno italiano, perché questo è sbagliato. Presidente Buzzetti, grazie per essere stato con noi, buonasera. Ringraziamo il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Adesso nuovamente suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci di nuovo insieme. Allora, lo ha detto anche il presidente dell'ANCE, il credito si restringe, le commesse mancano, la pubblica amministrazione paga in ritardo quando paga, gli imprenditori, lavoratori, artigiani decidono di togliersi la vita. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Allora, stasera a Roma alle 20 al Pantheon, silenziosamente, la fiaccolata organizzata da 20 sigle fra sindacati, associazioni e confederazioni, fra cui CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, Federlazio e Enuindustria, per denunciare la crisi gravissima che sta vivendo il nostro paese e che colpisce duramente i singoli individui che non ce la fanno più. Nel 2011 oltre 1000 suicidi fra lavoratori ed imprenditori, più 24% dal 2008. Nei giorni scorsi a fare il bilancio delle vittime fino ad ora era stata la CGIA di Mestre. 23 persone si sono tolte la vita dal 1 gennaio, il triste primato spetta al Veneto. Ieri avevamo promesso un nuovo intervento al presidente dell'Eures, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Fabio Piacenti, che saluto, presidente, stasera conto di darle qualche minuto più di spazio, perché ieri è stato presentato il secondo rapporto Eures sul suicidio in Italia al tempo della crisi. Presidente, io mi chiedo, poi vi presenterò anche un altro ospite, se mai avrebbe immaginato negli anni passati di dover condurre rapporti di questo tipo? Ma l'analisi del suicidio è un tema che, diciamo, chiunque si occupi di ricerca socioeconomica in qualche modo affronta. È un po' un tema centrale, proprio perché è uno degli aspetti più complessi anche dal punto di vista filosofico del comportamento umano, ma certamente non avrei immaginato di condurre un'analisi che andasse ad approfondire in maniera centrale il suicidio correlato, diciamo, alla mancanza di risorse economiche. Mm-hmm. Allora, voi avete monitorato attentamente questo drammatico fenomeno, rilevando come sono soprattutto gli imprenditori autonomi che decidono di farla finita perché non riescono più a fronteggiare il peso del pagamento delle tasse, dei contributi, gli stipendi dei propri dipendenti. Ma quello che mi colpiva ieri, e che ieri non sono riuscita a commentare con lei, presidente, è che voi avete messo e avete puntato il riflettore molto attentamente su quella fascia della quale stiamo parlando da qualche settimana con grande insistenza, quella degli esodati, cioè quelle persone che sono uscite dalla propria azienda, magari incentivate appunto dal proprio datore di lavoro, perché essendo in crisi chiede alle persone chiaramente di uscire, conferendo a queste persone magari una cifra tale da poter permettere loro di vivere con serenità il passaggio dalla figura di lavoratore a quella di pensionato. E però la riforma delle pensioni ha spostato ancora in avanti la data dopo la quale appunto godere del primo assegno pensionistico, e voi li vedete a rischio suicidio. Insomma, un'indicazione molto drammatica, presidente. Sì, è un'indicazione forte, che però è un'indicazione davvero costruita su dati oggettivi, non un allarme diciamo così astratto. Questo perché le do soltanto due o tre dati di riferimento. Nel 2010 rispetto al 2008 i suicidi nella fascia 45-64 anni sono aumentati del 16,8% contro, diciamo, un dato complessivo del 7,8%, quindi più del doppio. E contestualmente, sempre in questa fascia anagrafica, noi contiamo negli ultimi due anni un incremento dei disoccupati del 13,8% contro il 9% complessivo, ovvero è una fascia che oggi registra la più alta vulnerabilità sociale in termini occupazionali, naturalmente oltre alla fascia giovanile, che però in qualche modo, diciamo, trova un punto di riferimento, un sostegno all'interno del cosiddetto welfare familiare. Quindi noi sappiamo che questa fascia oggi è quella che più sta pagando da un punto di vista delle trasformazioni occupazionali il peso della crisi. Proprio per questo abbiamo detto attenzione, perché già è una fascia che è particolarmente a rischio, è una fascia dove si concentra la disoccupazione, dove si stanno concentrando fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro, e non vorremmo che, sommando a questi numeri quelli degli esodati, che oggi rientrano ovviamente nei cassa integrati, o che stanno comunque avendo degli strumenti, degli ammortizzatori sociali che consentono loro la disponibilità, diciamo, del reddito necessario, non vorremmo che questi numeri andassero a crescere ulteriormente nel momento in cui questa fascia va a ospitare un ulteriore numero di persone in difficoltà economica. Presidente, in due puntate spero di aver fatto un collegamento decente con lei. Io volevo rivolgere solo un messaggio ad un ascoltatore che ci scrive, dandomi anche della cretina, che parlare di suicidi incita all'emulazione. A noi sembra di fare un lavoro completamente diverso in questo momento. Cerchiamo di dar voce a quelle persone che non hanno più la forza di chiedere l'attenzione nei propri riguardi per dignità, perché quando ci si trova in grande difficoltà si fa fatica anche a chiedere aiuto all'amico più vicino, quindi figuriamoci alle istituzioni, alla banca e quant'altro, per cui abbiamo ritenuto opportuno con questa iniziativa Disperati Mai di farlo per loro, di sollevare l'attenzione su un fenomeno drammatico che vorremmo terminasse immediatamente. Presidente Piacenti, grazie per essere stato con noi, buonasera. Assolutamente, sono concordo con lei. Appunto, ci mancherebbe pure che incitiamo a emulare questi gesti. Saluto invece Angelo Camilli, presidente della piccola industria di Confindustria Lazio. Presidente Camilli, buonasera. Buonasera a lei. Minuto e mezzo di tempo con lei, ma ci basta per raccontare silenziosamente la maratona, la fiaccolata organizzata dalle 20 sigle che abbiamo indicato, ne abbiamo indicate solo poche prima, fra sindacati, associazioni e confederazioni, anche voi, per richiamare l'attenzione su questo drammatico fenomeno che si sta consumando nel nostro paese. Più che silenziosamente comincia ad essere invece una voce che si mette in campo molto molto forte. Presidente, insomma, qual è l'obiettivo di questa fiaccolata di questa sera? Ma l'obiettivo è quello a cui faceva riferimento anche lei, credo, come giustamente ha detto lei, occorre parlarne, non certo per emulazione, ma soprattutto per mettere in evidenza la sofferenza che oggi hanno molti imprenditori e lavoratori. I dati che ci sono effettivamente ormai drammatici e senza precedenti. Il segnale più importante ritengo sia appunto il fatto che almeno 20 associazioni di imprese, datoriali e le organizzazioni sindacali si siano unite. Questo dà un po' la consapevolezza della serietà del problema, quindi l'obiettivo è quello di coinvolgere, di sensibilizzare ovviamente le nostre istituzioni, sia quelle locali che quelle nazionali, sui temi che voi anche avete dibattuto questa sera in trasmissione, che stanno, diciamo, esercitando una pressione fortissima sulle imprese, soprattutto sulle piccole e le piccolissime. Gli episodi a cui faceva riferimento lei di suicidio sono episodi, per arrivare ad un suicidio è evidente che si realizza una situazione di solitudine da parte della persona, dell'imprenditore, che ha una tale pressione addosso da non riuscire più a individuare vie d'uscita. Quindi parlarne non è un fatto negativo, ma anzi sollecitare queste persone che si trovano in difficoltà a chiedere aiuto ad amici, conoscenti, alla propria associazione di categoria è assolutamente doveroso in questa fase. Infatti, e io ribadisco, respingo tutti coloro che ci stanno accusando di creare terrorismo psicologico. Grazie anche ad Angelo Camilli per essere stato con noi. Lo lasciamo alla fiaccolata organizzata per questa sera silenziosamente. Adesso l'appello di Sebastiano Barisoni. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti. Tornereste vicini ai vostri elettori. Focus Economia termina anche questa sera. Grazie a tutti per essere stati con noi. A Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione. Paolo Corleone in assistenza tecnica. Domani sera torna Sebastiano Barisoni. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.